e fa questo rumore, lo metto sulla gamba e non è fatto. E cappa. No, io ce l'ho, diciamo che mi ero lontano dalla radio, anche adesso ce l'ha quel rumore. Sì. E allora è qualche problema di coso, probabilmente devo staccare qualche filo da dentro. Questa è bella, questa è bella la radio. Ne ho tre di questi e ne voglio fare da tre uno buono. E perché quanti ne ha di quei micro? Tre ne ho. Uguali? Sì, uguali, 1300. Ah. Bisogna capire da che cosa dipende. Magari se dipende da uno non mi tira l'altro. Ma magari se si può comprare con pochi spicci non mi conviene di stare gli altri. Se riesci a mettere a posto tutti è meglio. Magari se non lo trovi allora sì. Ehi cappa, ma intanto mi compri e li trovi tutti scassati, li trovi. Ma questi tutti quanti comprati su internet? Altri due in blocco con altri microfoni e in più una colonnina esterna. Oh fra, allora l'M300, se l'M300 per diciamo per esperienza so che si consuma la carbonella. Non lo so quello. Vabbè, adesso vediamo cosa esce, quando capita che qualcuno gli do tutti e tre e me ne faccio fare uno buono. Ah, basta che tu tiri lo slider, glielo cambi, vedrà che non lo va di più zo. Potrebbe anche essere. Aspetta che cambia microfono. Se praticamente hanno lo slider buono con gli altri, quello lì, di solito è quello che si rovina. Se ci fosse stato una persona te l'avrei fatto dire, perché gliel'ha fatto lavoretto lui. Magari che riesce a fare, sì, io non gli posso mettere neanche le mani addosso perché non riesco a farle. Infatti, se non sei del mestiere è meglio che dai a chi sei in tetto. Appunto. Bene, con questo vado a nozze, con questo qua, già va meglio. Sì, va bene anche questo. Sì, questo è l'MPP5. Va bene, questo qui è bello presente. Che era, no, sia l'MP5 e l'MP4 qua vedo che funzionano benissimo. E a me mi sono rimasti lì il Super Sidekick come microfoni amplificati e il coso, come si chiama, il Saturnet, il Master Plus, quello lì, e poi c'è questo che sto parlando, che è della Proxel, e poi me ne sta arrivando un altro che ho ordinato, mi dovrebbe arrivare a giorno. Ecco, io ne stavo ordinando, e meno male che poi ho letto, che gli mancava la capsula, una Static, era bello, nuovo, bello a presente, tutto quanto, poi ho letto in fondo, che ci mancava la capsula. Prerogativa che c'è con molti acuti, non c'è bassi, io ce l'ho la Static, ce l'ho anche quello, però cos'era Red Devil, il diavolo rosso? Lo sai che non me la metto, avevo letto solo la Static, poi c'era un'altra scritta, però poi non l'ho neanche guardato perché l'ho lasciato perdere, perché poi ho letto che gli mancava la capo. C'è il diavolo con le corna disegnato nel Red Devil ed è il diavolo rosso, io l'ho comprato, l'ho pagato 78 euro mi pare, e mi dicevano tutti che aveva solo acuti, capito, che era molto metallica come radio. Alla fine me lo sono venduto perché diceva che era anche antisoffio, invece in macchina si sentiva il vento, diceva che era antivento, antisoffio, tutte balle. Ma lo sai che può darsi che ce l'abbia, mi sembra che l'ho visto un disegno, però non mi ricordo cosa era, ragazzi. Sì, il diavolo rosso sarà il Red Devil, se era rosso il microfono era il Red Devil, quello che ho avuto io ne ho un altro modello che non va bene. Però è forte, però c'ha sempre di non abbassi, capito? Ehi, capo. No, non lo so. È difficile, cioè, comprare un microfono da internet, anche usato così, è difficile perché non sai com'è, no. Se almeno avresti conosciuto chi lo usava, com'è, come lo tratta e cosa, se è perfetto, allora sì, ma quando compri alla cieca, perché in internet stai comprando alla cieca, stai comprando, lo sai, si deve appendere di naso, secondo me, a meno che non è uno onesto e ti dice cosa c'ha. Mi è tolto le parole alla bocca, questo qui è stato onesto che l'ha scritto. Ci sono quelli che magari dicono Turner Q3 originale, questo o quell'altro, che ti arriva o non va la gap sulla, oppure ce l'ha di altri microfoni. Infatti è così. Infatti questo è stato onesto che l'ha scritto, che la capsula non era l'originale, che era una presa così da tipo quella dell'MBB5, e allora ho lasciato perdere, non neanche più guardato. E magari trovando una capsula ceramica buona va anche bene, va magari meglio di quello originale. Ehi capo, sì, probabile, però è sempre un rischio. Beh, quello sì, e poi quanto lo voleva? 65. Ma di attaccarsilo a capo, quelle cose 75 nuovo, 78 là, ma lo prendi nuovo, ma no, io quello che ho preso l'ho preso nuovo, direttamente dal venditore. Vabbè, ma nuove quelle lì, gli astratti che non li trovi. Chi l'ha detto? Ah, ci sono nuove quelle. Vabbè, ci sono sì, basta che cerchi Diavolo Rosso oppure scrivi Red Devil, Red Devil. Capo, non lo sapevo, io pensavo erano tutti i microfoni d'epoca e non ce n'erano più nuovi. Ci sono, cercali su internet che ci sono, non scrivi Red Devil e lo trovi. E adesso ce l'ho spento, se no l'ho riattaccato. Guarda, lo prendi nuovo a quel pezzo lì che te lo sta prendendo quello, con la capsula originale, ma stai scherzando che quello sta facendo l'uvuibu. Metti a static Red Devil e lo cerchi, già te lo dà, già c'è. Ecco. Sì, lo guardo, sì, lo cerco sì a vedere. Scrivitelo, hai visto cos'è Federico? A te, la processione. Sono frate, te. Sì, lo sento. E anche forte. Alla processione. Eccomi qua, cuocuomani. Oh, aspetta un attimino, attenzione alla frequenza, l'isola della Sardegna, città di Sassari, fa chiamata e si sintonizza l'ascolto. Breco. Ora chi dov'è? Ma sembra un altro questo qua. No, mi pare sempre Edo. Quello di Malaga, pistacchio, stracciatella. Edo Stasci, di Malaga? Ando Stasci, quartiero. No, Edo. No, non è quello di poco fa. Perché c'è Franco, Claudio? Ma Franco chi? Franco California o Franco del Far West? No, Franco De Zussu, anzi, per meglio dire di Totubella. Franco di Non Mi Tollere, quello è, vero Fra? Totubella. Piace Marco? 2 giorni. Ma è sempre bello. Io ho un collega che c'ha la casa lì a Totubella, c'ha la casa di Alghero, ma c'è la casa a Totubella, avevamo fatto uno spuntino quando lavoravo a Montagnese, cazzo, bellissimo. Sai dov'è? Hai visto dove c'è il comune? Quella casa che c'è dietro il comune. Quella casa che c'è dietro il comune? Dietro il comune sono le scuole. E dietro le scuole, lì c'è una casa di campagna lì dietro le scuole, ma c'è la circoscrizione quella, Non ho capito che ti hanno sopravvoluto là. C'è la circoscrizione quella. Ma tu stai dicendo, ma come si chiama questo amico tu? Non lo so se lo conosci, Madedo si chiama di cognome. Madedo? Madedo di cognome? No. E qualcuno mi è arrivato dopo. No, è veterinario lui, capito, veterinario. Solo che è amico di quelli di Monte Agnese, quindi siamo andati in campagna sua. C'è una bella casa lì, proprio dietro dove c'è la chiesa, là. C'è il comune, dietro la chiesa praticamente rimane, perché c'è quella stradina che gira dietro la chiesa. Ma salendo verso Corso, come si chiama, dove c'è il meccanico. Esatto, dove c'è il meccanico. Cazzo, ma che sei, arrivi una bomba, arrivi noi, no, cazzo, sto promuovendo. L'ho detto, nella via del meccanico. E anche qua stanno sovramodulando, frate, sento proprio appello di uovo. Vabbè, comunque già hai capito, dai. È sempre bello lì, è molto bello come paese. È una bellissima frazione, tutto bello, a me piace un sacco. Ci ho anche lavorato lì, ho fatto il fontaniere per qualche mese. Capito? Avanti già. Cosa volte, mio hermano, cosa volte? Peccato che è tutto bello a far vedere il rosario, cazzo, se no che fa vedere la Careggio o fra. No, noi parliamo un sacco. Vabbè. Io tanti anni fa parlavo anche l'algherese, poi me lo sono dimenticato. Non lavoravo a Selemosca, ho lavorato qualche anno a Selemosca. E il tuo fratello già lo parla l'algherese? Cappa, loro sono sempre lì e sta sempre con la gente di Alghero, io non credo. Aspetta, sta lamentandomi. A chi ira de Sardegna, città de Sassari, me sta ablando. Anzi, avanti la Giulia, lì che il canale occupato, il marocchino della Giulia. Attento, mio hermano delle spalle, deve ascoltare l'operatore Gianni W della città de Sassari che te va chiamando. Chiamando. Chiama, dille se te abra. Ma poi se con gli antimuti a chi oggi chiama, la teniamo. Da sola, abra qui, abra là, abrami lo giuccio. Sperotta c'è un americano, madre di Dio, sempre stalas. Senti già, ma sai quanto mi ha chiesto Albino per fare il Galaxy Colt? Cosa, non ho capito. Quanto mi ha chiesto Albino per fare il Galaxy Colt? Dimmi. Praticamente, visto che abbiamo tolto la scheda, ecco, no? Lui al posto di quella, a fianco, al lineare, ci mette la scheda Colt. 150 euro. Sì. Io me lo ricordo quando facevano queste modifiche, c'erano belle spese. Te lo ricordo anche nei 48, cazzo, arrivavo a spendere anche 400-450 euro per fare. No, ma questo così non ne faccio, se no con la radio, cazzo. I soldi che ci ho speso è un casino, no, la lascio stare così. Già va bene così, normale, già. Era giusto per capire, perché hai tolto 120 euro la scheda, ma 30 euro mi ricordare di lavoro. E quindi è un prezzo abbastanza eccola. Vabbè sì. Ma adesso glielo porta quello là? Sì, dovremmo andare domenica, ecco perché ti ho chiesto. Ho detto se era impegnato, ci andavo io, però siccome mi pare che lui non sia a riposo, allora ci andiamo tutti e due. Capito? Per quello che mi ha detto del microfono. Perché gli ho detto ricordati di portare anche il microfono, così ce l'ha. E mi ha detto che non ce l'aveva. No, già c'è lui a casa. Non mi sono dimenticato di portarlo. C'è lui a casa. Sì, ma infatti gliel'ho detto, sicuramente non te l'ha dato perché ci aveva solo la radio in macchina, ma poteva andare a casa, prendere il microfono, tornare e fare. Era di passaggio, ho detto sì, perché ho detto, tu mi ricordi io, Gianni Pignolo com'è, il microfono ce l'ha, è originale pure, quindi già te lo va. Io ho visto per quello che l'ho chiesto. Franco di Sorso. Eia, già mi offendi meglio visto. Giusto, ogni tanto si apre la propagazione e arrivano a pompa qua. Non pensare, anche qua arrivano bei furti tutte le sere, ma poco fa c'era anche propagazione nei canali alti, in 10 metri ho girato, è tutto bene, gli spagnoli, i brasiliani, di tutto, beh. Però ho spento tutto, me la fotti nuda. Allora ho acceso qua, mi è entrato Gianni, c'era Massimiliano, che fine ha fatto Massimiliano? Si è allontanato un po', doveva misurare la pressione al padre, mi sembra. Sì, no, già me l'ha detto che non è stato bene quei giorni di caldo. sicuramente lo sta tenendo sotto controllo. Oh, Ogla, cosa gli hai cambiato tu per lo smitter al tuo? Cosa gli hai cambiato? Allo smitter del Galaxy, per metterlo a posto. Anche il tuo così è? No, una resistenza era una resistenza che però la brucia molto spesso, infatti me l'ha fatta, gliel'ha messa dello stesso valore, però vorrebbe del valore più alto e sicuramente ci stanno a bruciare, è una resistenza del cacchio che è proprio, se tu guardi, è tra i cavi del vicino ai cavi proprio che vanno al segnalatore, allo smitter. Capo. Caspita, non c'è nessuno proprio da farle queste cose, è una rottura di balle, è facile mia farla fra, però devi togliere resistenza, andare a comprarla, poi ripiazzarla e fare nuovamente la taratura dello smitter, capito? Io non l'ho toccato il primer, quindi no, praticamente è stato fatto in fretta, ma chi ha toccato poi lo smitter per aumentarlo dalla resistenza variabile, dal trimerino, per rimetterlo com'era, e quindi bisogna fare la taratura precisa. Capo, io non so quali sono i trimmer, però non li tocco, perché ho paura che poi sia da casino. Poi ci sta la fra, perché una volta che le metti la resistenza nuova, lo smitter torna in automatico com'era se tu non hai toccato il trimmer, ma se hai toccato il trimmer dello smitter, devi rimetterlo com'era, quindi rifare bene la taratura. E quello è il problema, per quello non li voglio toccare, capito? Io gli ho solo aumentato la radio, gli ho aumentato e basta. Sì, vabbè, quello lì il mio era già aumentato, la resistenza variabile del così chiamato il trimerino dell'LC era già al massimo, però l'altro era non è stato mai toccato, infatti io non l'ho toccato, però c'era questa cosa che ha perso valore, perde valore, non è che si brucia, perde valore, capito? E quindi non segna come deve segnare, non è niente, non è assolutamente niente, io l'ho presa già così, chi me l'ha venduta me l'ha detto, ma non mi interessa a me, di quanto la radio funzioni bene, però se glielo fai è meglio, insomma, almeno dai segnali giusti, ho capito. Anche quella tua mi già, quel Cobra sicuramente è quello, perché è uguale, hanno tutti questa resistenza, mi ha detto nel segnalatore dello smitter, così chiamato, che serve per la taratura del segnale in ricezione, capito? Vabbè. Io adesso fra poco accendo l'altro, il Ruiz, che sono da molto che non l'accendo, e lo faccio girare anche quello. Così tutti quanti si scaldano, che c'è freddo. Così fa andare, che bello, c'è una bella modulazione. Oh, c'è tutto, c'è banda laterale, c'è tutto quanto, Ruiz. Siamo un gioco, non me l'avevi comprato tu. Sì, è vero. Tu te l'avevi dato a Marco, mi pare. A volte l'ho dato, perché non ce l'aveva quella serie, riduceva quella a due strumenti, invece quella che mi hai comprato tu era tre strumenti. E anche a me, quando lo usavo, cazzo, arrivavano tutti in fondo scala, poi toccando c'era quel pulsantino lì, hai visto quel pulsantino bianco? Devi tenere quello abbassato e segnale perfetto. Io l'ho scoperto, me l'hai detto tu, e l'ho scoperto perché me l'hai detto tu, ho provato e così, in effetti. È così, c'è quel pulsante e lo riceve col segnale normale. E vabbè, tu fai sapere le cose, poi una volta che le sai, va bene così. Io non lo sapevo già, anche a me me l'hanno detto, capito? Non lo sapevo, cattarevi le dita a fondo scala, soprattutto quando ero a Carbonazzi, Roberto, a quella liscio, boom, boom, questo smitter cattare sbatteva, gli detto, boom. Infatti lo usavo poco, molto poco. E poi mi ricordo che me l'aveva detto, non me lo ricordo, sinceramente. Guarda che c'è un tastino bianco, guarda che c'hai un bel tastino bianco, uno di quelli praticamente ti tara lo smitter. Trovi il Ducato, perfetto, arrivavano tutti perfetti. Comunque io questo Intec l'ho sottovalutato, l'ho lasciato un po' in disparte, lo stavo quasi vendendo, invece è veramente un bel apparecchio, c'ha una bella modulazione, c'ha una bella ricezione. E poi io l'ho fatto tutto azzurro, tutti gli strumenti sono azzurri, è bellissimo. Sì, già me l'avevo mandata la foto, ce l'avevo anch'io quello, sì. Bellissima radio, funzionava molto molto bene, io ce l'avevo con le MB+5 e funzionava bene, quello che funzionava meglio di tutti con le bande laterali, tutto, era 40 canali, era il 594, quello che avevo preso da Capri, 595, 495, quello della Midland base, ecco, quello era favoloso, anche esteticamente era bellissimo. E quello che fine ha fatto? Tutto lui l'ho dato, regalato tutto a Gianni. Ah, hai detto tutto, e vabbè. Cavagava, no, perché quel mito, qual era? Quello bianco? Sì, quello bianco, io ho tolto il coperchio, l'ho fatto a Roberto, l'ho levigato, ho fatto, e l'abbiamo fatto nero. Tutto nero, non mi piaceva ma è bianco. E sembra una radio della Marina. Sì, tutto nero, perché poi c'era il frontalino grigio, mi pare, no, forse era nero anche il frontalino, con i pomelli tutti cromati, molto bello. Gran bella radio, la 27 è favolosa, io ci avevo collegato perché dava pochi watt, dava 5 watt, mi pare 6 watt, una cosa del genere, ci avevo collegato il 747, usciva che era una cannonata, molto molto bella, ottima ricezione. Claudio, via. Un attimo che mi sposto, dai, sentiamo dopo, riprendi già. E io dai, ciao fra, buona questi greci. Io a lui se l'ho pagato 200 euro più 30 euro di spese di spedizione, perché mi piaceva, non dovevo avere. Non ti ricordi quanto avevamo pagato quello mio? Sinceramente non me lo ricordo, fra. 200 euro eri riuscito a portarlo via. 200 euro eri riuscito a portarlo via, compreso le spese di spedizione. No, io ho pagato 230 euro in tutto. E me l'ha mandato col microfono che non andava, cioè c'è il microfono originale ma aveva problemi al cavo, allora per non stare a smontare il cavo gli ho messo la static, gli ho fatto i contatti e via. Sì, ma va bene, ottimo per la truppa, va benissimo, alla grande. Una gran bella radio, esteticamente tutto, non ha niente a vedere al Galaxy, nulla. Erano belle tutte e due, guarda che è un bel trio, Galaxy, Ruiz, il coso, l'Intec, come stazione di base è un bel trio, poi vabbè come radio primaria di quelle veicolari già lo sai che è il coso, il Cobra. Ma anche il Superstar non dispiace, adesso mi sta arrivando il microfono, vediamo un pochettino come va. Sì, si è preso quel microfono, il Superstar va molto bene. No, io ho il DAC Galaxy come base già, non mi posso permettere di prenderne altre come prima perché non c'ho posto perché ho radio grosse e grandi, c'ho il 920 che è più grande del Galaxy e c'ho la linea completa, tra la radio e la colonnina già mi prende mezza scrivania, quindi mezza base, perciò no, non posso come prima, capito? Poi questa cameretta è fatta diversamente perché è una cameretta per gli ospiti, quindi c'è il lettino, c'è l'armadio, è una cameretta, capito? Io mi sono affiancato al muro, ho messo la base che avevo prima e basta, una sola ne ho messo base, prima della ne avevo due, capito? Perché se no non ci sta, capito? E quindi niente. Perciò ho tenuto solo il DAC che ci sta e il Galaxy sopra il DAC con i gommini sotto, con i filtrini, ma non c'è sopra il Galaxy niente. E poi a fianco c'è l'altra base dove c'è tutte le linee della Kenwood e sopra con l'altro soppalchetto come avevo prima c'è la linea HF e le V e le U, capito? Basta, no, non metto altro perché sennò mi riempio la stanza e cazzo se dovesse venire qualcuno cazzo va di tutta di cagosa e non vedo come che muovisci. E se viene qualcuno poi manco modula. Sì, quello vuoi. Solo la notte deve dormire, no? Che dicono che rentano. Cappa, e vabbè. Andave. A picco di modulazione che c'ha il modulometro, no, che sta apparecchio qua, va a fondo. anche il DAT è così, anche il DAT c'è il modulometro, quando si curi, infatti tengo il microfono sempre normale, se le metto il quale pietrole MB più 5 va al massimo, capito? Invece col microfono normale modula normalmente, perché quel modulometro lì è fatto per il microfono normale, se lo amplifichi non tiene più e si curi, si piega l'ago. Cappa, dammi un secondo solo che cambio a parte. Io sono qua. Hola chico. Vamos a bailar. Questa bomba. Va bene. Questo qui era un vecchio microfono, è cambiato il filo, perché era non vecchio, diciamo che aveva il filo tutto sgretolato. Sono andato da Fusaro e c'aveva un filo che sarà di Bussidiva. È un bel, il filo è un bel lungo, capito? Sarà, io penso 2 metri. No, va bene già, tutti hanno parlato un po', neanche io mi sono passato col 430 a farlo andare un po', poi sono passato col 140 e se no col 430. E va bene questo qua, dai, da... se non lo c'è un bel apparecchio. Sì, oddio, funziona benissimo, va bene, c'è una bella radio. Ah, questo dove l'ho preso io era un collisionista. Praticamente ha detto che stava diventando un radioamatore, doveva fare un po' di spazio, c'aveva tutto in vetrina, ne aveva diversi di stazione base, mi ha mandato tutto l'elenco per vedere se mi interessava, con i prezzi a fianco, ma non ne ho preso altre perché la verità non volevo spendere altri studi, perché già ce n'erano belle, c'era il tram, bello. Anche poco in mano, c'è un tram a vero bello. No, io mi sono sentito a poco con un amico di Milano che è collezionista, dove avevo preso anche io un po' di radio, e mi ha telefonato, mi ha detto se mi serve il Simba, l'SSB50, non mi serve più niente perché gli ho tutte le altre radio, come mai qui da dove mi sono disfatto di tutto, mi sono messo solo le radio che uso, perché avevo la casa piena. Grazie a voi, di voi, 250 euro dove si invita, bene Dio. Se la fanno pagare perché sono pezzi radi. Pezzi radi, poi è bello, Simba, è bello, è una bella radio, e io pensare che ne ho avuto due di quelli, cazzo, ho tutti e due radio. Ecco qua, adesso mi sono messo le cuffie. Ti sei incuffiato? Perché lei non stava cantando, sennò magari disturbo, capito? Non disturba a me. Ah, così, mi disturbate a vicenda. Onde evitare che sentano anche quelli del condominio, già, bisogna barare a noi questo condominio, per carità di Dio. Ma se ne bisogna da una, non ha accettato il convegno di fine anno, ha messo avvocati, Ghisu di Dasso, stiamo pagando avvocati, sta di giro a testa, gli abbiamo detto quanto ti dobbiamo dare, ti diamo i soldi che vuoi e basta, punto. No, io vado fino in fondo, ci vediamo in tribunale. No, ma mi ha rotto le balle, cazzo. Ogni rottura di balle quando è così, tutti mi bacetti. E allora, pagando avvocati, questo, quell'altro, adesso hanno chiesto la mediazione e lei non ne vuole sapere che di mediare, capito? Sono tutte spese, tutte spese così, fuori luogo. Sì, spese straordinarie sono, lui a me. Io all'anno 1600 euro di condominio pagavo, davvero. Cosa pensi che abbia preso una decisione? E 130 euro, da 50 euro di condominio pagavo siamo arrivati a 130 euro. Capito? Una rata fissa di messa, ma di cosa siamo vedendo? Aio, i picchetti vi. E io ne pago 100. Vabbè, ma mio già, un condominio molto grande, ci sono belle spese, capito? Gestione parcheggio macchine, c'è cioè giardiniere fisso, ho 7 scale da lavare, manutenzione di quello, manutenzione di quell'altro, cancello rete, guarda, lascia perdere, 1600 euro all'anno di condominio. Sì, anche qua c'è sempre giardiniere fisso, ascensore, tutto quanto. purtroppo il condominio è così. Diciamo che quando sei a contratto, se ti va bene stai meglio, però più quando c'è da pagare qualcosa te lo devi pagare da solo invece che spartito fra tutti. Ehi, partito fra tutti, io c'è partito fra tutti. Casa mia lo ripagavo io, Rigosci. Poi, oltre a quello che mi dovevo fare a casa e tutto quello che ho fatto, in tutti gli anni che ci sono rimasto, dovevo anche pagare i soldi degli altri, capito? La gestione condominiale, che era un'altra cosa. Qua il giardiniere lo faccio io, le manutenzioni me le faccio io e le cose me le pago io solo per me, non per gli altri, perché lì era una truffa continua, capito? Una truffa continua. Certo, si lasciava le telecomandi a casa, non è che tornavano indietro a prendere i telecomandi, no? Stanziavano il cancello, sai quante volte l'hanno rotto, hanno bruciato il motore, quante volte hanno sgranato i cuscinetti della ghiera, casini allucinanti, capito? Rompevano la chiave dentro la serratura, quindi l'amministratore poi, quando passava a prendere le quote, ti inseriva 10 euro in più, 20 euro in più, si è rotto quello, si è rotto quella. Cazzo, ma se non l'hai fasciato io, a chi non te lo fai pagare non l'hai fasciato? Io la serratura per più volte dal portone sono spezzata, non hanno detto nulla, ho smontato la serratura e l'ho tolta io. Perché se no toccava pagare, rifare tutto quanto, prendere il cilindretto nuovo e tutto, invece lo smontavo, gli davo due cuffie, lo facevo uscire un po' fuori e lo tiravo con la pinza. Oppure si può togliere anche con quelle graffette, che si usano per fermare i fusi. Esatto, però molta gente era furba, capito? Sfasciava le cose, no, non si rubava la lampadina già, cazzo. Quante volte, ma siamo a Rubugio oggi, a Rubugio, capito? Quelle lampadine, perché quando sono usciti i LED, no? L'amministratore cosa ha fatto? Ci siamo contatti per consumare meno, quelle della notte, no? C'è un bei lampioni accesi, ci sono, le ha tutte sostituite e messe tutte a LED. Come hanno visto che abbiamo messo lampadine a LED? Se le portavano via, se le portavano a casa, ma dimmi tu, cazzo. Ma danno che fanno anche a loro, ma non ci pensano, anche qua al cancello c'era stato un problema che il cancello non si apriva, quindi abbiamo mollato la frizione e l'abbiamo aperto. Cosa ha fatto qualche furbo? Ha messo praticamente di nuovo la frizione, chi sapeva che il cancello era libero è andato a spingerlo e ha fatto danno, si è spaccato proprio sotto dove c'è il perno. E c'è il perno alla fine cosa? Qui c'è un imbecilli. Perché sono imbecilli, capito? Non sanno che poi pagano un ferolo, manco balle ne raffutti. Per carità, guarda, lascia perdere io quante bisticce per queste tronzate, mai per altre cose, ma per queste tronzate a volte, ma scusa, ma perché adesso le mando il cancello? Perché lo porti fuori guida? Poi quando riparte cazzo mi cale, si rompe, si sgrana, cosa le fa? A chi roba doia, a questi livelli, c'è da prenderli e spararli. Lo so, purtroppo c'è gente che fa le cose da capo di cale, se non hanno spinto con la macchina, per non scendersene dalla macchina, hanno pensato che fosse aperto come era prima, che cosa hanno fatto? Non hanno spinto con la macchina, hanno dato un colpo, tra che si è spaccato, perché non è possibile, a mano non vira mai, faccia che si bello, è grosso. Faccia la guida, ma stai scherzando, poi lascia perdere. Lascia perdere, ma se c'era un periodo, cazzo, questa puzza che c'era sempre alle scale, questa puzza, infatti ho chiamato anche l'amministratore, però mi chiama, ma questa puzza che c'è? C'è odore di fogna, c'è puzza, c'è odore, io sono al secondo piano, prendo puzza, e vengo a controllare, che problema c'è? È venuto assieme, abbiamo sollevato tutti i tombini, dove c'è il vano ascensore, dove sono i contattori, nuda, tutto ordinato, pulito. Cos'era? Quello dell'ultimo piano. Cazzo, metteva la mondezza fuori dalla porta. Che schifo. Ebbene, non lasciava in chibi, la discarica ha fatto. Ma la lasciava lì, la sera, la toglieva e la buttava lì domani mattina. Cazzo, una puzza, perché però persone anziane, quindi sicuramente erano in mano lì, vento, di tutto. Una puzza che non ti dico. E cazzo, quando prendeva le buste che scendeva l'ascensore, dovevamo bloccare l'ascensore, lasciare la porta aperta almeno un'ora. arieggiare tutto perché non si poteva entrare, cioè, ma cazzo, ma ti rendi conto? È come quelli che ci sono, che un ascensore portano la monda e sta dicendo di qua, ma non è che sono capaci a passare uno strascolo, può succedere, perché può succedere quando butti la buccia d'anguria, questa roba qua, però vedi che fa casino, a caso più d'estate si fa subito nero, tutto quanto nero, un fiago che lo si buccia. Guarda Gianni, ho visto tutti i colori lì, è sempre per questo vive, perché ti ripeto, allora io lì sono stato una vita, nata mia figlia lì, quindi una vita, non ho mai avuto problema, mi incazzavo per queste cose, mi incazzavo, perché veramente una cosa allucinante, l'androne appena verniciato, siamo messi un giorno io e il, perché ho fatto anche il caposcala per anni, quindi io, l'altro ex caposcala, altri due, ci abbiamo verniciato tutto l'androne, tutto. Proprio per non spendere, non abbiamo chiesto niente a nessuno, siamo contati 5 euro a testa, abbiamo preso la tinta, tutto pulito, fatto, ordinato, cazzo un mese durato, e si tende l'ascensore, aspettando, tu chiami l'ascensore, aspettando l'ascensore, a ti puoi appoggiare alla colonna, cazzo appoggiando il piede. Noi addirittura facevano i buchi nel muro, ma quelli erano bambini, quando erano bambini adesso non stanno più facendo, buccavano il muro vicino all'ascensore, aspettavano l'ascensore, magari quella bella, che cosa buccava nel muro, e vabbè tutti i colori sono così, mi c'è sempre la pecora nera, questa qua è una zitellona di chi si rompe in balle, capito? Non sa dove attaccarsi, infatti il capocolore ha detto, c'è chi vive, lascia vivere, c'è chi invece non sa cosa fare, si attacca alle cose che si possono risolvere in soltezza e ti fa passare casini, eccetera, eccetera. Non ne frega nulla, una senza talento, mio marito è senza lavoro, io sto lavorando a ore, cosa ci vuole dare? Altri problemi? Ci abbiamo già roba da pagare, per cui io non pago nessun avvocato, le problemi che gli avvocati che vogliono non le pago. Sì, ma è così. No, ma su quello noi eravamo molto solidari, perché è capitato a qualcuno nel mio condominio, abbiamo fatto una riunione ai capiscala e l'amministratore ci ha detto, tizio è in queste condizioni, cosa facciamo? Lo aiutiamo o lo ammazziamo? No, se uno sta negando, le devi dare la mano, non le devi mettere il piede in testa, lo affoghi. Allora, quanto deve dare? La quota sua quant'è? 80 euro, quanti siamo noi? Siamo 8, perfetto, allora 8 capiscala, 10 euro a testa, ogni mese li mettiamo noi e lo mandiamo, lo portiamo avanti così. E l'abbiamo fatto per un bel periodo di tempo. Poi gli è arrivata la cassa integrazione e ha iniziato a pagare, capito? Però la gente non si affoga se sta già affogando, si tende la mano per salvarlo. Vabbè, come abbiamo fatto noi nel nostro condominio, c'era uno che era senza lavoro, non poteva pagare, ci siamo contatti noi. Però vabbè, adesso sta pagando di nuovo, non è che, però è stato un bel tempo che non pagava, e così anche per la 110, se c'è qualcuno che non paga, ci ha detto l'amministratore che dobbiamo contarci noi per quello che non paga, ma ti sembra giusto? No, già la 110 non conviene, o siete tutti d'accordo e tutti cacciano i soldi, se no attenzione che ci ne mettete un sacco di denaro, da me dove abitavo io prima la 110 non è stata potuta fare, perché in 5 non erano d'accordo e sono un sacco di soldi già. Ma non ti credere, l'hanno fatta diverse persone, chi ha speso 2000 euro, chi ne ha speso 1500, però gli hanno rifatto tutte le tubazioni del bagno, tutto il bagno, gli hanno messo le tende nuove da sole, gli hanno fatto l'impianto elettrico nuovo, insomma, dentro casa ti fanno un cantiere, chi si è che io zio godimento? Non è il problema dentro casa, non me la fotti nulla, capito? Non è quello il problema, è che 1500 non le mette Tizio, 1500 non le mette Caio, 1500 non le mette Sempronio, cazzo, a chi viaggio di Bonievo, di Dinassoi, perché a lui le fanno i lavori, io le devo pagare, e da me è successo un casino, ovvero prima, capito? No, io me ne ero già andato, però mi ha raccontato quello che c'è, che è successo un casino, non è stato potuto fare perché c'erano intanto degli appartamenti che non erano a norma, e poi gente che non era d'accordo per fare il cappotto sotto, mettiamo pilotti per fare la facciata, già, stiamo parlando di 32 metri di facciata alta, 32 metri per quasi 30 larga, quindi un pacco di soldi, il preventivo che è stato fatto per il 110, sì, sono 800.000 euro lì. E vabbè, quello è un grattacielo, si sa che è così. Non so, diciamo che è a quattro piani, non è che sia più l'avanzato, più vabbè l'attico. Ma il problema è che magari se uno ha messo la veranda deve toglierla perché non va bene, e l'altro che ha fatto qualche modifica dentro casa e non se la può far vedere deve riportarlo, oppure magari deve pagare come si chiama la mucca rossa, cosa cavolo deve pagare. No, già la 110 funziona così, viene il perito per fare la perizia, ok, e l'appartamento deve essere perfetto come è accatastato. Se tu all'interno hai applicato delle modifiche non si può fare assolutamente, capito? Ci vogliono tutti i progetti degli appartamenti, tutto l'accatastamento, tutto il mappale, tutta la documentazione dell'appartamento deve essere come è nato, perché altrimenti te la bocciano. Io guarda, l'unica cosa che ho fatto nel doppio servizio, c'era una porta tra lavandino e il bagno, io l'ho tolta e ho fatto tutto uno, praticamente ho tolto quella porta e l'ho ingrandito il bagno, capito? Sì, ma quello fa sempre la stessa cubatura, il problema è che non hai fatto muratura, ma molti, da una stanza ne hanno fatto due, hanno fatto un casino nero, capito? Un casino nero, perché quelle case lì, diciamo, il salone è molto grande. Tu immaginati che un appartamento di quello, come uguale a quello che c'ero io, 95 metri quadri, sono stati fatti due appartamenti. Cioè tu apri la porta del pianerottolo, entri, c'è un corridoietto, c'è una porta a una parte e una porta all'altra, è stato diviso in due, quindi bocciato completamente perché fa cubatura. Ho capito. E vabbè, comunque già non so come funziona, devi anche pagarlo quel tecnico che viene a fare le perizie. Il perito lo devi pagare tu di tasca tua. Certo, 400 euro a testa se mi hai visto. 500. A noi 400 perché erano tanti appartamenti. Tipo, cos'è zia nonna? Va a fare la piscia così. Stavo più vigilando, poco fa non è ancora uscito. Adesso lo faccio uscire. Ma è Massimiliano. Franco, boh, non c'è più nessuno. Oh, è Tatalino, vabbè. Qualcuno è invece che sta mangiando. Ho visto il lavoro stamattina che ha fatto l'Attalino. Sì. Molto bello, l'ho visto anch'io. Molto bello, ha fatto bene, l'antenna esce fuori dal tetto, finalmente. E questo qua ha aumentato un sacco, qua ha aumentato quasi 20 dB. Dilla a tutti. Ah, eccolo qua, che si dà piso mentre gioca. Te lo sto dicendo, hai fatto un bel lavoro, cosa vuoi a dirti, qua. Vai, per il bella. Io organizziamo andare a pescare, dai. No, organizziamo andare a mangiarci una pizza invece di queste sere. Anche quello si può fare. Avanti. Buonasera a tutti, sentito Claudio, Gianni e Natalino, chi c'è qui? Nessun altro. Nessuno, io Gianni e Natalino. Perché me sono te da Natalino? Perché si vede. Ciao Robè, buonasera. Vabbè, arrivava forte anche prima, adesso sei un po' più forte, dai. Sono basso me. 9,25 qua arrivi. Non so se sei a parità di radio, a parità di potenza e a parità di tutto. No, 10 watt sto usando. Per poter pisciare il cane. Sì, attenzione, non ti pisci la gamba. Io con lui c'è come sta arrivando. Tu sei poco più basso di Natalino. Lui è 25 e tu sei appena di me. Gatta, vabbè, Natalino risulta più vicino a te. Ma c'è un kilowatt tu? Io ho il vaso dell'apparato, 4 watt. Sto scherzando, naturalmente, scherzate anche un kilowatt, oscuri tutto il paese. A parte che non lo posso attaccare anche un kilowatt, non l'ho mai avuto io. No, sto scherzando, dico, a parte se attacchi un kilowatt, con un baracchino penso che oscuri tutto il quartiere. Sì, c'è chi l'ha fatto, non è che... Sì, anche di più di un kilowatt ho sentito, però con un baracchino bisogna stare un po' attenti. Avanti, uso il baracchino, bene va. Tu cos'hai con 500? Ho fatto un controllo? Chi sei? Ma sei là? No, Antonio sono. Sì, che sembra una voce normale, 9,40 la mela, tu. Già va bene, là. Questo c'ha 3 kW e mezzo. E così com'è? Ora. Cioè? Più alto, ma salito il segnale. No, uguale, è cambiata qualcosina la radio, ma tutto uguale. Grappa. Sembrava la voce massimiliana, ma il microfono a palmo, sai? Via. Come a tavolo. Scappa, vai, chi tocca, Gianni? Io. Io vabbè, sono piccolanne, sto usando lui, sono a parecchio di 50 anni fa. E con che microfono sta utilizzando? Con la Static. No, funziona bene, ce l'ho anche io il Ruiz, l'ho perso la parte perché non lo so più utilizzare, ma mi è nuovo, è proprio nuovo. E a chi su? C'è anche lì di nuovi, perfetti, non c'è un grasso, niente. Il mio, perfetto, ed è originale americano perché ha 110 volt, infatti c'ho il trasformatore esterno, non è di quelli per il mercato europeo. Ma da lì io sono arrivato, mi è arrivato, ho aumentato di segnale, anche i ricettori sono migliorati da te. Io adesso ho cambiato apparato e questo non è giusto, questo è il melegatto. Sì, ma rispetto a prima, ti hanno aumentato anche i segnali in ricezione o solo in trasmissione? No, anche in ricezione. Scappa. Vediamo se c'è qualcuno volete, lasciamo un secondino di bianco. Di nuovo a Gianni. Vabbè, va. Oh, yeah. Così è. Io adesso se sono luce dopo tanto tempo perché era tanto che non lo usavo. È un bel forte di radio pure, ma il microfono da palmo è quello. Da palmo è la Static questo qua. Sì, ho capito, però la Static fa anche tavolo da tavolo. No, la Static è quello con la retina cromata, se l'è presente. Ehi, no, no, si sente bene, è anche troppo forte, magari allontanatelo un po' dalla bocca. Ehi, ma vabbè. E comunque già va bene, già una bella radio questa qua, mi piace anche vederla, tutto mi piace, però mi manca sempre una radio qua, la devo pulire. E se non va bene già? Ma ci manca sempre Galaxy, la mia chicca pipirita. Sì, vabbè, già venne, faccio comprarti un dono, c'è bello. E tu come stai uscendo invece, basso qua? Io sto andando con 430, mitico 430. Si stai spaccando i timpani, comunque c'è qualcuno sotto che sta chiamando, non so se è rivolto a noi, avanti che vuole entrare? Spaccando i timpani, io non tocco niente con questa pompa più da 140, va bene così. Bella amplificata, forte e chiara. È una bomba quella lì. C'è qualcuno, Santiago 9, qua sotto, non so se c'è propagazione col VIP. Vediamo, chi vuole entrare avanti? Propagazione, Roberto Stedini, fai girare. Ma lo sai, Roberto, cosa c'ha questo microfono? Che ha sta filo quadrato, ti sembra diventa un Lidugan, mamma mia. Guarda, io li odio i microfoni da palma proprio perché sono scomodissimi, poi a momenti te lo metti attaccato alla bocca. È anche poco igienico, secondo me, perché magari... E come parli magari qualche cosa di saliva, mi metto io lontano, seduto a 50 centimetri, magari lo sporco lo stesso, però è diverso. Vabbè, ma io non lo tengo attaccato e poi ci parlo solo io da qua, che... Aspetta, scusa un attimo. Ci parli solo tu, però te lo metti vicino alla bocca, magari in casa, con tutte le polveri e tutto quanto, come quelli microfoni, quelli che cantano, i cantanti musicisti, quelli tipo Sanremo, si attaccano al microfono alla bocca, chissà quel cavolo ha toccato. Grazie a voi per le cantare un altro. Lascia. Vabbè, a posto. Ehi, mi sto mettendo la roba a mangiare, oh. Che è già ora. C'è anche Antonio qui. Antonio, riprendi. Quella Antonio. Che è Bombolino. Ehi, come non lo sente? Bombolino. Cosa si è spostato? Come schiaccia portante si abbassano le luci di casa mia. Chi? Io? No, Antonio, arriva una bomba qua, è attaccata a me. Io non dico, è 9:39. Cosa si è spostato Antonio? E vai a fare Pasqua e Capodanno, che si dice di bello? Quando l'ha messa l'antenna? Ieri l'ho messa, dai, comunque rimango un attimo in quel Rix che devo mangiare qualcosina, sennò mi la glicemia. Sì, riprendi. Però mi ha mandato una foto di un cavo d'antenna, ha giù un preso, cosa significa Natali? Lascialo mangiare. Praticamente il cavo che ci aveva, oltre l'antenna, il cavo era completamente nero, l'ha messo nuovo. Ah, non riesco a capire, ho detto, forse deve fare qualche esperimento. No, era completamente nero, deve essere che è entrata l'acqua, è tutto diventato nero, capito? Ecco perché la ricezione, QRM, il casino. senso c'è il tavolo nuovo, vabbè. Domani vado a fare quell'operazione, vado a Macedo, mi prendo un pezzo di tubo che entri in quella canna da pesca, è giusto giusto a misura, perché ne ho un'altra officina, però è mezzo piegato, ne prendo un metro e ce ne infilo dentro. E poi passo da prendere, non so se mettere, per fare quel pezzettino di filtro, per il 58 usare il cavo tipo 213. 213 ne bastano 6 spile, il 58 ce ne vogliono 12, dimmi 12, sì 12. Ma scusa, il 58 ce l'ho io, perché vi metto il 213 per fare il gioco? Si fa col 58 il choc, Robert, quanto te ne serve? Ma ne hai tu? Sì, che ce l'ho io. Dall'antenna al commutatore. Dall'antenna al commutatore, quanti metri sono? Guarda, il choc dovrebbero essere facendo 12 spile, il diametro da 10, il diametro per 3/14 sono 30 cm, per 10 sono 3 metri e ce ne vorranno un 7 metri. No, ne ho di più io di 7 metri. Di più di 7 metri, perché compreso il choc ci sono già i PLA già attaccati, compreso il choc lo fai dopo il PL naturalmente, almeno un 50 cm dal PL fai il choc e poi vai al commutatore, quindi già ti basta quello che ho io. Ma ce l'hai già pronto? No, no, sono anche già i PL attaccati, o quello lo uso, sarà un 10 metri, una decina di metri, non so. Capito, forse anche di più. Lo uso per fare così, quando taro le antenne dal giardino, attacco quello lì direttamente alla radio, capito, la porto fuori. Allora prendo la testa, anziché occupare la radio, occupare il giardino. Cazzo, vabbè, se si questa parola a contare con me, posso anche staccarti le orecchie. Poi trovo io, già pronto, e prenderà nel cuneo.it. Vabbè, fammelo, già lo sai, poi con te no problem, dai, già ci facciamo altre cose. Sì, ma guarda, c'è un problema, già ce l'ho io, non lo prendo, che c'è già il PL pronto e te lo do io, così lo attacco direttamente. L'ho comprato apposta, forse quest'estate, per fare questa qui, la G-Pol di Carlo l'ho parata con quello, capito, per non stare a sganciare i miei, portarli fuori. L'alimentatore sulla sedia e l'ho parata con quella. Vabbè, se te ne ricordi, quando passi da me, così mi eviti anche il coso di mettermi a fare PL. Se ce l'hai già pronti, non fa perdere tempo. Sono già pronti da Ponado, già pronti e nuovi due, sono. Dopo mi vado e me lo metto già pronto e te lo porto, capito? Chiappa. Ok, e chi è rimasto qua? Vediamo se Antonio c'è ancora. Antonio, ci sei? Aspetta che vado a prenderlo, che c'è ancora luce. E Antonio? Gianni? Natalino sta mangiando l'omogenizzato. Attenzione, 10, chi c'è? È rimasto qualcuno? Che è? Avanti, compagno. Non lo so chi sei. Avanti, non ti capisco. Ti sento in mezzo al QRM. Segnale buono, 8, ma la radio è quasi incomprensibile. Non ho capito chi sei. Ciao, avanti. Avanti qua sul 10, dove entrare. Ora. Già sta funzionando, eh. Un saluto a tutti, sono di passaggio e sto rientrando. Sembrava la benedizione, hai dato, Marco. Come lo beh? Sembrava certo la benedizione. Un saluto a tutti i fedeli. La messa è finita, andate in pace. Ci serve da dirlo, andate in pace in tempi di guerra, mamma mia. No, stavo rientrando da fuori, ho messo fatto dentro e qua minaccia pioggia e adesso mi metto in libertà. E quindi rimango un po' in ascolto, faccio spazio latte, mi ascolto un po' la tripla 5 se c'è qualcosa. Tutto qui, non so chi ci sia, ho sentito ste girando i canali. Allora c'era Claudio che è andato a prendere la roba, c'era Gianni, non so dove sia andato, Natalino a mangiare veloce, c'era Antonio, forse si è allontanato, e buio. Poi c'è uno lontano, non capisco chi sia. E tu stai entrando a bomba qua, 9.50 stai arrivando, cosa ci hai fatto? Ciao Marco, sì, te l'ho preso, e una decina di metri saranno, Roberto, forse anche di più. Va benissimo, di lusso qua. Ciao Marco! Buonasera a tutti su, io adesso rimango in ascolto, magari mi metto l'altro apparecchio, provo a vedere se ci sono anche la radiatori in 10 metri. Insomma, una spazzolata generale, dai, mi do l'ascolto oggi, non a Giugana, proprio sono ai miei termini oggi, ridotto ai miei termini. Riprendi Gianni. E io Va bene, allora fai buon cuore X, dai, cosa vuoi che ti dica? Sei sempre stanco, tu, boh? Sì, però sta diventando una cosa quasi preoccupante già, adesso devo fare controlli, guarda, me ne passa la voglia di fare analisi, così. I canoni si bocciano, alla fine, mi... Tanto siamo bersagliati tra piaghe, locuste, maledizioni divine, eccetera, guerre, carestie in arrivo. Vai Claudio, Corex per me. Cato uno, ciao Marco, il vaiolo delle scimmie abbiamo anche. Ci mancava anche quello. Scusa Robè, hai ragione, c'era ancora attaccato l'aiutino. Scusate, lo secondino al telefono. Avanti col secondino. Avanti, avanti, Natalino, riprendi. E aspetta un attimo, riprendo subito. Mangia, mangia. Beh, stamattina com'era? E non risponde. Vabbè, riprendi Claudio. Io che ho rimasto? QRM5 ultimo. Pure qua. Adesso è calato a 3. Da 3 a 5 va il QRM. Cato Bogas. Sì, poi modulazione cinese, tedeschi, in FM, spagnoli, fanno un casino di fondo. Bene. Ciao, ciao. Ho fatto un controllo. Vadi. Ora 3 prova. 9-10 radio 5. Aumentato. Io sono arrivato adesso, tu. Gianni? No, da me ho. 8. Ma diminuito o aumentato? Mi sembra di scendere più basso. Ma a casa, sì. Oh, bravo. Oh, deposito. Ora a vedere ora. Ora. Prova. Ora 3 prova. È sempre uguale. Brecco, brecco, brecco. Cosa hai cambiato? Ho cambiato il capo, ma il PL non va vita. Cosa dico? Ho cambiato il capo, ma questo capo di PL non c'ha vita, c'è stato un break. No, si è preso quel PL di Fusaro, non ha vita, no? Quello lì, non l'ho comprato io. No, c'è venendo davanti il break. Claudio, buonasera da Giovanni e buonasera agli altri, l'ho appena acceso. Chi è che c'è? Antonio, ho sentito Antonio, ma pensavi che stava parlando con Antonio, ma no, non capisco una parola di quello che dice. Salutamo. Ehi, ehi, c'è Antonio, c'è Roberto Quadrato, non so se c'è anche Marco Condor, c'è il dottor Ruben, vai già. Va bene, dai, io vi lascio. Roberto, ciao Gianni, allora. Ehi, ciao Giovanni, hai sentito, dai. Oltre, come l'hai cambiato il cavo che era nuovo nuovo? Perché mi stava dando un po' di problemi. E allora è entrata acqua. No, ma ne hai messo quello grosso, Anto. Ma quel piede non va bene. Non va bene quel piede. Io me li avevo fatti sostituire. Ne avevo preso 5. Come ho preparato i travi quando sono venuto qua per montare le antenne. Non avvidano, non avvidani. Ma mi sembra che me l'aveva detto Gianni. Era successo anche a Gianni, no già? Io ho fatto tutti gli spezzoni con H100, gli spezzoni per mettere le radio in caso magari avessero qualche problema. Qua ce n'è uno che avvita qua. 2, 4, 6, 8, 10 piedi ho messo. Tutti quanti, uno peggio dell'altro. Ho messo capeggiato. Dai, adesso vedo di sostituirlo, che non va bene. Ma lei ha tanto PL. Non va bene, l'altro, c'hanno poca filettatura, non ce la fa a prendere il bocchettone della radio, non ha vita. Assolutamente, io li ho restituiti, soldi non me li ho fatto trovare, ho comprato altra roba. E me li ho ordinati da fuori, capito? Preparazione, chi ha GBC, in cui fate pagare a 3 euro l'uno, capito? 3 euro l'uno al PL di fuori GBC, di plastica. Allora io ho chiamato un amico e me l'ho fatti mandare da fuori, una busta, 10, mi pare ne ho ancora 3 o 4, mi servono per montare le altre antenne, tutti buoni, quelli in macchinite, e almeno sono sicuro che funziona. Vabbè, ah, domani lo chiamo. Gappa gappa, avanti Roberto, non c'è più Roberto. A tutti, là. Al telefono era. Ciao, Antonio, cresce, riprendi mani. No, dai, Bianco, sono qua, sto solo ascoltando, intanto la limite ribatto. Sì, aveva risposto al telefono Roberto. Vai Gianni. Sono rientrato e ho capito, Roberto. Non ti fai spaventare. Giovanni, lascia a te, dai, vediamo un po', cosa ci racconti di bello? Niente, stiamo affrontando i problemi di questi CL, io ho avuto lo stesso problema, intanto non avvistano, e poi li avevo presi a L, ma cazzo si spezzano, si piegano e non servono a niente. Dunque ne volevo anch'io un po', dopo organizzarlo. Boh, boh, via, ammalettone gioca. A me sta dicendo Robert. Ciao Giovanni, ben sentito. Buonasera. Marco, giusto? Marco, sono Roberto da questa parte, non so se mi ascolti. Sì Roberto, ti ascolto. Ok.